Giovedì 30 maggio del 2013, 87.900, la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa, e diamo inizio con qualche minuto d'anticipo all'appuntamento con Visionare il cinema ogni giovedì dalle 14 alle 15, perché la scaletta si riempie sempre in maniera spropositata e quindi cerchiamo di sentire tutti i nostri ospiti. Diamo inizio ai collegamenti, poi ricordiamo un po' di numeri e di riferimenti. Giovanna Taviani, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao Fede, ciao a tutti. Come stai? Bene, emozionata, stanca di ritorno da Cannes, ma benissimo. Allora, a Cannes, perché tu hai presentato un piccolo documentario, Il Riscatto, che sarà presentato comunque anche a Roma, alla Casa del Jazz, il 4 giugno prossimo. Giovanna, dicevi, è un momento in cui ti stai occupando tanto di carcere, raccontaci in che modo. Sì, infatti, diciamo che sì, va bene, a Cannes sono andata in una sezione short corner, quindi sezione mercato, per questo mio, non so che cos'è, un corto di 25 minuti, alcuni lo definiscono docufilm, a me non piace, però in effetti si chiama Il Riscatto ed è la storia del riscatto, appunto, di Salvatore Striano, già bruto in Cesare deve morire, ex detenuto del carcere di Rebibbia, che poi incontra Fabio Cavalli e la compagnia teatrale di Roma e poi approda all'Orso d'Oro di Berlino e oggi è un uomo libero, ovviamente, e appunto è su tutti i set, insomma sta vivendo un bel momento e lui è l'esempio appunto di chi comunque, grazie alla tenacia, diciamolo pure in questo caso anche se sembra un po' idealistico, però grazie alla forza dell'arte, ha capito che poteva diventare un uomo nuovo, e ho fatto questa cosa e devo dire che tutto da quando ho realizzato questo corto sto incontrando una realtà che non conoscevo, appunto. Oggi stamattina ero al Museo Criminologico di Roma, dove c'era una conferenza stampa importante legata a un progetto nel carcere della Gorgona, in Toscana, un'isola, no? Sì. Per cui, dove appunto Frescobaldi, quindi un brand molto importante, ha fatto un progetto con il carcere della Gorgona, ha preso in gestione un ettaro di terreno, ha insegnato i detenuti a coltivare, cioè a fare il vino, e oggi presentavano questo vino chiamato Gorgona, molto buono, che è un modo anche per comunque integrare, poi non so quando usciranno i detenuti dal carcere, i detenuti nella società, perché questi poi lavoreranno per Frescobaldi. Uguale a Rossano Calabro, 10 giorni fa, prima di Cannes, sono stata invitata con questo mio corto a un carcere di massima sicurezza a Rossano Calabro in Calabria. Il direttore, anche quello, una persona meravigliosa, illuminata, che comunque crede molto, l'incontro era intitolato L'arte come strumento di libertà. Sì. E ho fatto la proiezione del Riscatto davanti a 200 detenuti condannati a fine pena mai. Ti dico solo che, devo dire, è stato abbastanza forte, non mi era mai capitata una cosa del genere, e appena sono entrata un cartello gigante: vostra venuta, nostra speranza. Ma insomma, un po' commosso, e quindi sì. Insomma, sto dentro il mondo carcerario in questo momento, ecco, da Fughe a Prodi alle Eolie, in questo momento, forse perché la realtà è così opprimente, no? Che comunque allora furono terra di confino, tra l'altro, le Eolie, per cui sempre il carcere c'è, cioè, insomma, comunque. Sì, senti Giovanna, stavo ripensando, visto che hai parlato di museo criminologico, che lì poi è stato dove Ulderico Pesce ha trovato il cranio di Giovanni Passannante, dell'anarchico Giovanni Passannante, ha dato vita poi allo spettacolo e alla campagna che ha riportato poi alla sepoltura insomma la testa di Giovanni Passannante. Ma pensa, questo non lo sapevo e me la dai tu come notizia. Sì, vedi, si impara sì. Sempre qualcosa sì, sì. Da Visionari. Un po' di cerchi che si chiudono. Senti, sì. All'origine di tutto, anche del film di Papà e Zio, c'è questa esperienza di Fabio Cavalli al carcere di Rebibbia con il suo laboratorio teatrale, e raccontaci un po' che hai conosciuto di questa realtà. Sì, ho conosciuto sicuramente Salvatore Striano, appunto, che mi ha raccontato insieme poi a Fabio Cavalli, mi ha fatto un po' rivivere quell'esperienza con i racconti. Cioè, lui dice che praticamente quando è entrato a Rebibbia, lui ha una vita che è cominciata dentro il carcere, dal carcere minorile dai 14 anni, poi è arrivato a Poggio Reale dove ha compiuto il 18° anno per delitti di criminalità organizzata, chiaramente non ha mai ucciso, però insomma era ad alti livelli, e dopodiché viene trasferito a Rebibbia. E, anzi, prima scappa in Spagna, poi lo prendono, questo lo racconta lui nel mio corto, e poi viene condannato a 17 anni al carcere di massima sicurezza di Rebibbia, dove poi esce dopo 8 anni per condono. E lì lui racconta sempre queste notti dove appunto i guardatori di soffitto, no, li chiamano italiani, nel Cesare deve morire, dove lui non riusciva a dormire. A un certo punto leggeva Shakespeare, leggeva, grazie all'incontro con Fabio Cavalli, comincia a immedesimarsi in quelle storie, fa la tempesta nella parte di Ariel, comincia poco a poco, in maniera quasi terapeutica, a capire che non solo che la colpa, il tradimento sono temi universali, quindi anche il perdono, quindi ma anche che a un certo punto lui poteva essere un altro, cioè interpretando Ariel diventava Ariel. Quindi poi, insomma, a un certo punto dice: io mi addormentavo a quel punto la notte sognando di risvegliarmi in quelle storie e non nel racconto del mio compagno di cella. Sì, sì, sì. Quindi lui a un certo punto esaudisce questo sogno, cioè si risveglia a Berlino, a Manila, grazie all'arte sul palcoscenico. È un equilibrio abbastanza delicato da mantenere, perché il peso della colpa chiaramente grava su di lui, cioè lui non si dimentica, però dice anche: io quando recito mi sembra di potermi perdonare, che è una frase, se vuoi, anche un po' romantica, però molto vera in lui, ecco. Sì, sì. Giovanna, allora è uscito fuori questo ha realizzato questo corto documentario, chiamiamolo così, per comodità, oltre a ricordare chiaramente martedì 4 giugno la presentazione alla Casa del Jazz, che futuro ci sarà in questo percorso che hai intrapreso? Dopo questa presentazione che farai? Guardi, ci tengo tanto a dire questo, che questo corto, che è un docu, non so che cos'è, comunque è la prima volta che dirigo un attore, sì. E Striano è veramente un talento, quindi c'è comunque una messa in scena, lui si confessa in una cella storica di Arezzo, che dove siamo entrati, dove ci sono ancora i colpi di mitraglia dei partigiani nel 44 che stavano per fuggire, quindi c'è anche un incontro scontro tra il mondo della camorra da cui viene lui, e quindi un tipo di carcere vissuto oggi, e invece il mondo di chi tanto tempo fa rinunciò alla libertà per degli ideali, ed è in un bene confiscato alla mafia, in particolare alla banda della Magliana, quindi comunque siamo in un terreno sociale molto interessante, no? Sì. Non facciamo la serata mondana, ma insomma si aprono delle situazioni di confronto, di dialogo, di riflessione importante. Il futuro è che è nato quasi per gioco, e è successo che è piaciuto per gioco, insomma, è nato così come: ah, ma Striano, perché non facciamo una cosa? E poi è successo che siamo andati a Cannes, ora siamo qui con Libera, poi siamo stati presi a Open Road, alla rassegna di Antonio Monda a New York, Lincoln Center, dove partiremo il 6 giugno. Poi il Festival delle Frontiere, che chiude e apre a Spoleto il Festival dei Due Mondi, ci ha ospitato il 5 luglio, dove proietteremo il riscatto in piazza Spoleto, meravigliosa, la presenza anche di Laura Boldrini. Quindi, e poi ci stiamo pensando a un circuito, a un evento, a un tour nelle carceri italiane, di tutte le regioni italiane, e nelle scuole, ecco. Giovanna? Sì. Ok, allora ci vediamo. Chiaramente avremo modo di riparlarne. A questo punto noi ci vediamo martedì 4 alla presentazione, e poi chiaramente daremo conto dei prossimi appuntamenti con te. Va bene? Assolutamente, anche a Salina Dog Fest, ovviamente, lo faremo per lo spazio. Ok. Grazie. Un abbraccio. Fede. Ciao Giovanna. Grazie, arrivederci. Bene, si trattava di Giovanna Taviani con il suo corto documentario Il Riscatto, dicevo martedì 4 giugno alla Casa del Jazz la presentazione. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15. Potete seguirci dalla radio sugli 87.900 in modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal sito internet della radio su ondarossa.info. Sulla homepage c'è l'opzione Ascolta la diretta. Per comunicare con noi il telefono 06 49 17 50, per l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Gli sms in diretta, anche se mi sembra che ci siano delle difficoltà ultimamente, comunque il numero è 342 357 4357. E c'è anche la pagina chiaramente sul sito della radio, dove trovate la scaletta della trasmissione di oggi alla voce trasmissioni visionari, gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 30 maggio, i nostri suggerimenti, le nostre indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, e poi gli altri appuntamenti della settimana, questa volta su tutto il territorio italiano, tra rassegne, festival e presentazioni, e poi il link per ascoltare la puntata precedente. Che altro? Basta questo, e poi anche tutto l'archivio del 2013, ma anche del 2012. E stiamo aspettando invece una telefonata da oltreoceano, vediamo un po' se ci riusciamo per un collegamento molto interessante. Bene, allora siamo riusciti a collegarci, nel senso ci sta chiamando, che bello sentirti dall'altra parte del mondo, Filippo Piscopo, che insieme a Lorena Luciano è il regista di Cold Rush, che è stato premiato come miglior documentario green al Milano International Film Festival pochi giorni fa. Filippo, benvenuto intanto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille, grazie per l'ospitalità. È un piacere averti con noi. Allora, si parla di carbone, inquinamento da carbone, in che termini? Raccontaci un po' tutta questa storia. Ma allora, la storia nasce molti anni fa. Una piccola comunità rurale degli Appalachi americani, che è lo stato della West Virginia, che è uno stato in un certo senso dimenticato, sono un po' gli Appennini americani in un certo senso, e sono uno degli stati maggiori produttori di carbone negli Stati Uniti. È uno stato prevalentemente bianco, in cui c'è una grossa industria carbonifera che fa da padrone nella zona, nel senso che è una monoeconomia, e ci sono alti gradi di povertà. Allora, questa compagnia che si chiama Massey Energy 30 anni fa comincia ad iniettare sottoterra i liquami velenosi derivanti dalla pulitura del carbone. Sì. Il carbone va pulito prima di essere mandato alle centrali elettriche, e quindi il liquido, il risultante, deve essere smaltito in qualche modo. Allora, cosa fanno le compagnie? Pensano bene di utilizzare le loro vecchie miniere sotterranee abbandonate e iniettare questi miliardi di ettolitri di liquame tossico e molto dannoso per la salute in astratto. Sì, in concreto, sì. A un certo punto la comunità di persone che vive sopra questo smaltimento sostanzialmente si rende conto che l'acqua che bevono, che usano per mangiare o per lavarsi, diventa verde, rossa e nera, e quindi cominciano a pensare che c'è qualcosa che non va. Dopo anni collegano le due cose e fanno causa alla compagnia, accusandola di aver inquinato le falde acquifere iniettando questo liquame velenoso sottoterra. Il danno però è già fatto, nel senso che molto spesso appunto quello che succede è che quando l'acqua diventa, si colora sostanzialmente, vuol dire che è già da tempo che questo veleno è entrato nelle case dei residenti, e infatti le malattie si moltiplicano, il coefficiente di malattie gravi come i tumori al cervello, piuttosto che i problemi ai reni, piuttosto che i problemi cutanei, eccetera, sono molto superiori rispetto alla media nazionale, e la comunità si riunisce e decide di fare causa a uno dei più grossi colossi carboniferi degli Stati Uniti. Mm-hmm. Questa causa si trascina per molti anni. Molto spesso la strategia delle compagnie è quella di continuare a posporre il processo, e infatti questa causa dura 7 anni. Noi di questo evento scopriamo, dopo mesi di ricerche, scopriamo questa cosa. In realtà lo spunto iniziale, l'idea di questo film è venuta quando abbiamo visto nel 2006 una delle più grosse tragedie minerarie in televisione. Abbiamo visto questa grossa tragedia mineraria a Sago in West Virginia, in cui 13 persone rimangono intrappolate sottoterra per un'esplosione, e sembra che all'inizio danno la notizia che queste persone sono, questi minatori sono ancora vivi, mentre in realtà poche ore dopo verrà annunciato alle famiglie che nessuno si è salvato tranne uno. Allora, davanti a questa tragedia minerale, che è stata un caso enorme negli Stati Uniti, noi stessi abbiamo scoperto una cosa che non sapevamo, cioè che negli anni 2000 a tutt'oggi ci sono persone che vanno sottoterra e ricavano il carbone e estraggono il carbone. Uno pensa al carbone come un'energia legata alla rivoluzione industriale, sostanzialmente, mentre invece è un'energia che viene estratta oggi, non solo, ma abbiamo scoperto che il carbone fornisce, almeno nel 2006, quando abbiamo cominciato a lavorare su questo progetto, il carbone forniva il 51% dell'energia elettrica americana, quindi una cifra grossa se teniamo conto del consumo di elettricità. Da lì cominciamo a fare ricerca, e ci è voluto un anno per trovare la storia giusta per raccontare questa situazione, e abbiamo trovato la lotta, insomma, di questa piccola comunità rurale che si è opposta ai grandi colossi del carbone. E da lì abbiamo cominciato a seguire la saga, non solo legale ma anche umana. Certo, che le persone si cominciavano ad ammalare, cominciavano a star male, e c'era tutta una serie di storie che abbiamo seguito lungo un periodo di 4 anni, perché abbiamo seguito per 4 anni questa vicenda, e poi ne abbiamo ricavato questo film, insomma. Bene, bene. Volevo chiederti un paio di cose. Intanto, con quante persone questa comunità, quante persone coinvolge questa causa intentata contro la società del carbone? Dunque, in questo caso si tratta di quasi 800 persone. Quasi 800 persone. Di una contea a sud-ovest della West Virginia, quindi una contea sperduta della West Virginia. Però può diventare un precedente, insomma, dal punto di vista delle cause collettive, immagino. Sì, sì. Un precedente, anche perché la causa, questa in particolare causa, a differenza di quanto succede normalmente, non è stata classificata come class action, il che ha comportato un lavoro centuplicato per il team di avvocati che hanno seguito la causa, che hanno portato avanti la causa, nel senso che nelle class action normalmente basta dimostrare un caso di una malattia, e quindi tutte le persone che hanno quella malattia vengono ricomprese, diciamo così, in questo insieme. Mentre in questo caso, non essendo classificata come class action, vuol dire che gli avvocati e i loro assistenti hanno dovuto bussare porta a porta e classificare singolarmente ognuno di questi 800 casi, quasi 800 casi, quindi è stato un lavoro enorme di anni. Sì. Filippo, dove sarà possibile vedere questo lavoro? Dunque, in questo momento noi stiamo lavorando sul circuito dei festival, nel senso che ce l'hanno chiesto sia dall'Australia che dall'India, che da una serie di altri paesi, festival internazionali, ma quest'estate siamo stati invitati a un circuito itinerante, e dall'Italia devo dire c'è stata, oltre che dagli Stati Uniti, c'è stata un grosso riscontro, nel senso che ci hanno chiesto specialmente le comunità e le associazioni che operano vicino a zone industriali, come per esempio quella dell'Ilva di Taranto, piuttosto che altre zone, piuttosto che la Sicilia, eccetera, la zona che hanno avuto problemi simili, e il film si vedrà in questa rassegna molto bella, itinerante, di cinema, che si chiama Cinema da Mare, che avverrà dall'inizio di luglio fino all'inizio di settembre, una rassegna itinerante che girerà per l'Italia. Ce ne siamo occupati più volte. A questo punto, però, dacci riferimenti internet per saperne di più proprio sul documentario e sulla vostra attività, se avete un vostro sito. Te lo stavo proponendo io. Allora, il film ha una pagina Facebook che si chiama Core Rush, che si può trovare facilmente, mentre il sito web è Core Rush, una parola sola, movie come film, una parola sola, .com. Benissimo. Però la pagina Facebook probabilmente è il modo migliore per capire quali saranno, insomma, le strategie distributive. Che poi per lo spelling, per chi non conosce l'inglese, è COALRUSH, insomma, per il Rush. Esatto. Filippo, io ti ringrazio, ti abbraccio e magari ci sentiamo una prossima volta, spero presto. Senz'altro, grazie mille dell'ospitalità. Complimenti a voi, a presto. Grazie, buona Ciao. Giornata. Filippo Piscopo insieme a Lorena Luciano, registi del film Call Rush, premiato come miglior documentario green al Milano International Film Festival. Mario Sesti, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie a voi della vostra attenzione, come al solito. Allora, con te per parlare del tuo documentario Fiamme di Gadda, spasso con l'ingegnere, uscito in sala il 21 maggio scorso. In che modalità, intanto ti chiedo, Mario? Beh, è una modalità, diciamo, non convenzionale, nel senso che è uscito un giorno, il 21 maggio, a Roma, Firenze, Napoli, Milano. E il 21 maggio non è una data casuale, perché è il giorno in cui ricorrono i 40 anni della morte dello scrittore del pasticciaccio di via Merulana, appunto Gadda. E poi ha proseguito a Milano e a Roma in tenitura. Allo stesso tempo è andato anche in onda su Sky Arte, quindi consentimi di considerarmi un po' strumento di un disegno più grande di me, insomma, perché questo documentario è stato anche l'occasione per celebrare, diciamo, la figura di un grandissimo scrittore. Nel mio documentario Gifuri addirittura dice che è il più grande della lingua italiana dopo Dante. E come spesso capita, raramente purtroppo, ai grandi della nostra cultura, perché questo è un paese che ha una memoria da pesce rosso, diciamo, e quindi tende tantissimo. Quindi grazie a questa iniziativa le cose si sono messe, i piedi si sono incrociati e c'è stata una vera e propria celebrazione. Io stesso ho avuto modo di ricevere molti sms di persone che l'hanno visto anche in TV lo stesso giorno, e questo naturalmente non può che farmi un immenso piacere, ma credo che sia un piacere per chiunque considera la letteratura italiana qualcosa di un accessorio, diciamo. Certo. Tra l'altro, a proposito del disegno più grande di te, una parte del pasticciaccio, ossia il ritrovamento del cadavere, lo ha portato Popolizio al Fontano Nestate, e poi lo abbiamo riproposto anche qui in radio, al Radioteatro. C'è lo spettacolo di Fabrizio Gifuni che hai citato poco fa, e che il spettacolo su Gadda rappresenta, fa il binomio con quello su Pasolini, che ha portato in scena sempre lui con la regia di Giuseppe Bertolucci, e poi Radio 3, dove Gadda ha diretto l'emittente per qualche anno. C'è stata una serata proprio con ospite Gifuni che ha fatto delle letture, ma insomma è stato un modo per celebrare, insomma c'è parecchia attenzione, mi pare di capire, intorno a questa figura. Beh, insomma, è uno scrittore tanto amato quanto difficile, tanto grande quanto oscuro. Fabrizio Gifuri è stato sicuramente quello più attivo, soprattutto sulla scena, anche perché, come dice Paola Italia quando l'ho intervistata, come si dice nel documentario, Paola Italia è una delle gattiste più importanti oggi, insieme a Giorgio Pinotti della Delphi e a Claudio Vela, che stanno rifacendo questa edizione straordinaria di tutte le opere di Gadda. E questo è un altro avvenimento che credo andrebbe aggiunto a tutto quello che hai detto. Cioè, Gadda è uno scrittore che forse è più bello da ascoltare che da leggere. Difatti anche nel mio documentario c'è una lettura fatta da Pino Calabrese al Teatro Valle Occupato di uno dei racconti più divertenti, più spericolati di tutto il Novecento italiano, che si chiama L'incendio di Via Keplero, nel quale Gadda descrive, come se fosse una comica di Buster Keaton, quello che succede in un condominio di Milano quando scoppia improvvisamente le fiamme di un incendio, di cui anche il titolo, diciamo, un po' del mio documentario. Ecco, a proposito di documentario, come l'hai articolato, Mario? Ma io ho cercato di essere più gardiano possibile, così come Gad è famoso per il cosiddetto plurilinguismo, no? Quando uno affronta la pagina di Gad si sente si sente invaso da tante lingue diverse. C'è la lingua letteraria, lui era uno capace di rifare anche il fiorentino del Cinquecento, ma anche la lingua scientifica, ma anche i dialetti. Dunque, se si è avventurato in qualche pagina del pasticciaccio, avrà visto come il molisano, il romanesco, il napoletano si fondono l'uno nell'altro, e quindi il linguaggio della scienza, quello della filosofia, quello della tecnica, eccetera. Così ho cercato di fare anch'io con il documentario. Quindi c'è sia il teatro, no? Ci sono Gifuni e Rubini che recita alcuni testi che ho scritto io, che ricostruisco un po' la vita di Gad, ma ci sarà anche naturalmente la piccola scoperta documentaria, perché c'è un testimone che racconta che da ragazzo ha frequentato Gad, da adolescente, e ha fatto un tratto di strada che è appunto la passeggiata del film, fondamentalmente tra, diciamo, via Crescenzio e piazza Mazzini. Però ci sta anche l'animazione, ho ricostruito, diciamo così, la figurina tipica del menhir, che era il corpaccione di Gad, attraverso l'animazione di Annalisa Corsi, ma ci sono anche le fotografie attraverso cui ho messo in scena l'incendio di Via Keplero di Elisabetta Marangoni. Insomma, ho cercato di essere plurilinguista anch'io, perché poi, tra l'altro, come sai tu che ti occupi di cinema, il documentario alla fine è l'unico vero genere attualmente che ti consente questa libertà. Insomma, se io fossi stato un regista più importante e famoso, io poi non sono regista, sono un critico cinematografico, quindi uso il cinema per dire delle cose che mi interessano come critico, probabilmente non sarei stato così libero, perché mettere in scena la vita di Gadda o Gadda stesso, eccetera, no? Avrei dovuto prendere gli attori o una sceneggiatura, cioè in questa maniera in realtà ho usato tutte queste cose con una libertà che probabilmente non è consentita al mainstream. Ho trovato anche un superotto inedito che mi ha dato Armando Liberati, che è la persona che ha ereditato tutta l'opera di Gadda. Insomma, ho cercato anch'io nel mio piccolo di rifare un po' il verso a Gadda, costruendo un documentario il cui linguaggio avesse la stessa ricchezza e complessità che si avverte immediatamente, la cui identità si avverte immediatamente quando uno apre un libro di Gadda. Ecco, al di là, anche oltre l'abilità linguistica di Gadda, quali sono in sintesi gli aspetti che ti hanno più colpito in lui e che trovi più attuali? Beh, sai, da un punto di vista cinematografico e anche critico, naturalmente, innanzitutto le zone oscure della biografia. È un uomo di cui non si sa neanche una traccia lontana di qualche relazione sentimentale, tant'è vero che spesso si è parlato della congettura della sua omosessualità, ma non ci sono prove né in un senso né in un altro. Insomma, siccome uno che ha scritto quei libri, che aveva una tale capacità di concertare nella finzione l'umanità, non poteva non avere una vita affettiva, sentimentale, straripante, insomma è veramente curioso la reticenza, la censura, la rimozione con cui uno che poi era capace di riempire un taccuino con tutto ciò che faceva ogni giorno, riportando poi gli acquisti, le minute, i conti, eppure, come dice Paolo Italia, appunto, che ha dragato, ha esplorato, ha battuto in lungo e largo questi archivi, non c'è una minima traccia, no? E quindi c'è un'ombra oscura, un'ombra nera, c'è un mistero, no? Nella sua vita, che insomma è molto affascinante, no? Da raccontare. Mm-hmm. Poi, se veniamo proprio allo stile, l'ironia. Gadda è uno scrittore che magari una pagina non capisci niente, poi l'altra ridi in una maniera, insomma, imbarazzante, cioè ha una capacità, è un po' il Fellini, diciamo così, anche se un paragone forse un po' schematico e troppo facile, no? Però è un grande campione del grottesco, capace di fare caricature di qualsiasi cosa, ma allo stesso tempo di passare, per l'appunto, da una straordinaria capacità satirica, una profondissima ispirazione, da una grande capacità comica a delle fitte di dolore, proprio questa mescolanza di intelligenza, dolore. C'era sicuramente qualcosa nella sua biografia, e alcune cose sono note, come ad esempio la morte del fratello durante la prima guerra mondiale, che l'ha segnato profondamente, dopo quella morte, che la sua affettività, come dice su studiosi, gliel'è spaccata in due, per così dire. Insomma, questa miscela, no? E poi, come dice Gifuni, per esempio, come si possa trasformare un dolore molto profondo in uno è una fonte di creatività, insomma, che è una concezione, se vuoi, un po' romantica, però è sempre un'alchimia, una meccanica, per usare una parola cara a Gadda, insomma, che la cui genesi, appunto, meccanismi interni, il cui funzionamento più profondo sono molto affascinanti. Dove sarà possibile vederlo, Mario, prossimamente? Allora, appunto, sicuramente all'Oberdan di Milano, chi ha Sky lo vedrà ripassare anche in questi giorni, credo che attacchi adesso una tenitura appunto a Roma, anche all'Aquila, ma soprattutto, diciamo, dai metà giugno o forse un po' prima uscirà in DVD con luce. È la mia esperienza, insomma, io ho fatto un documentario su Fellini, un altro su Pasolini, poi La vera vita inevitabilmente è, come dire, il fuoco lento del consumo in DVD, che è simile a quello di un libro, quindi per Pasolini e Fellini è capitato di continuare a fare presentazioni del film in DVD in tantissimi centri, Pasolini che ne ha fatti una trentina in tutta Italia. E spero che anche Gadda, ovviamente, che forse non ha la stessa fama di Pasolini o di Fellini, ovviamente, però insomma, il fatto che esista un DVD che lo racconti con degli strumenti linguistici, credo, insomma, appropriati, possa essere un'occasione in più per farlo scoprire a chiunque. Bene, Mario, allora ti abbraccio e a risentirci per le prossime novità. Assolutamente, grazie a voi. A presto, ciao. Presto. Mario Sesti, regista del documentario Fiamme di Gadda, Spasso con l'ingegnere, uscito in sala il 21 maggio scorso. Allora, dovremmo essere in collegamento, si sta spostando Cristian Carmosino, il regista Cristian Carmosino, in veste di coordinatore, lo sentiamo nuovamente in questa occasione per la coordinatore del progetto Ecomulo, di cui abbiamo parlato quasi un anno fa, se non sbaglio era luglio del 2012, un progetto di cui ora parleremo, e questa sera ci sarà una serata di finanziamento di questo progetto al Centro Sociale Occupato qui a Roma. Ricomincio dal Faro. Cristian, ci sei? Eccoci. Salve, ciao a tutti e a tutte. Allora, una storia molto interessante, raccontacela in breve tu. Sì, è il viaggio che abbiamo filmato con un documentario di Federico e Mirko, due ragazzi palermitani che sono partiti da Portella della Ginestra il primo maggio dello scorso anno e sono arrivati a Roma dopo 67 giorni di viaggio e oltre 1200 chilometri percorsi sostanzialmente a piedi in groppa a due muli. Nulla, abbiamo realizzato questo documentario che è un progetto, diciamo, che nasce collettivo, nel senso che c'è stato il contributo di diversi filmmaker indipendenti che nel percorso che loro hanno compiuto da Palermo fino a Roma li hanno filmati e hanno, diciamo, appunto ripreso questa impresa. Abbiamo raccolto quindi tantissime ore di materiale, di contributi anche girati da loro stessi, che con una piccola videocamera si sono anche autofilmati, e nulla, adesso siamo in una situazione in cui abbiamo cercato, diciamo, di finanziare con dei canali più istituzionali la seconda fase, quindi il montaggio e la post-produzione del film. Non abbiamo avuto un grande successo da questo punto di vista e quindi abbiamo deciso di appunto ripartire di nuovo con un finanziamento, con una campagna attraverso una produzione al basso, quindi una campagna, diciamo, collettiva, ecco. Tra l'altro sì. Vai, dimmi, continua, stavi... No, questo è lo stato delle cose, quindi siamo partiti con un progetto di richiesta di un contributo di 5.000 euro attraverso la piattaforma, e ognuno può contribuire comprando una quota minima di 10 euro che corrisponde anche all'acquisto di una copia del DVD. Dai 10 euro in su ognuno può partecipare e contribuire quindi al finanziamento della post-produzione e perché questo film abbia, appunto, veda luce e una distribuzione poi futura. Tornando proprio stasera presentiamo questo. Cosa, scusami? dico, e stasera facciamo una delle presentazioni che stiamo facendo, la facciamo a Ricomincio dal Faro, quindi presentiamo il progetto, l'idea, chiediamo di sostenerci e proiettiamo degli estratti del film oltre che il teaser che è disponibile online. Tra l'altro ci sarò anch'io a conversare con voi, sono stato invitato. Esatto. Allora, Christian, tornando al documentario, durante questo tragitto in vie non abituali, non asfaltate, quindi non le grosse arterie, hanno incontrato contadini, associazioni e hanno raccolto pizzini, ossia rivendicazioni da portare poi qui a Roma alle istituzioni. Penso per esempio alla lotta contro la distruzione degli agrumi che avviene in Sicilia, contro l'uso di pesticidi e sostanze chimiche in agricoltura, e poi lo sfruttamento dei migranti, penso ad esempio a Rosarno, che è stata una delle tappe, e poi gli alti costi di certificazione invece per i terreni coltivati con rispetto per l'agricoltura e la ecocompatibile, ecco. Esatto. Meglio di così non lo potevi dire, hai detto tutto. No, c'è questo aspetto, diciamo, c'è un'Italia rurale, contadina che esiste ancora e che loro hanno voluto incontrare, raccogliendo questi pizzini, quindi dichiarazioni di queste tante realtà, ma sostanzialmente persone comuni che hanno incontrato lungo il percorso, con l'idea di portarle al Presidente della Repubblica, un po' simbolicamente ma anche pragmaticamente, attraverso appunto questi messaggi che sono stati consegnati poi effettivamente a luglio dello scorso anno al Presidente. E da una parte questo, e dall'altra anche promuovere un discorso di un'economia diversa e sostenibile, prima di tutto attraverso un turismo ecosostenibile e anche attraverso una valorizzazione del territorio che oggi non c'è, perché sappiamo bene che nel sud, loro l'hanno riscontrato fisicamente nella difficoltà che hanno avuto ad attraversarlo il sud, a parte diciamo poche infrastrutture che funzionano male, la Salerno e Reggio Calabria sappiamo tutti cos'è, ma ci sono anche non c'è nessuna valorizzazione di quello che è il potenziale turistico di questi luoghi. Per esempio, loro dicevano, sarebbe possibile recuperare tutte le vecchie ipovie che sono ancora in alcuni tratti presenti, però ci vuole la volontà, diciamo, politica di andare in quella direzione e quindi di incentivare un turismo diverso che non sia appunto quello dei grossi villaggi turistici quindi non un turismo di massa, ma un turismo magari ciclabile e di questo tipo. Ecco, anche questo era il messaggio che loro cercavano di portare, e devo dire, personalmente, avendoli seguiti in diverse di queste tappe, ho potuto riscontrare che c'è la possibilità eventualmente di pensare di riconvertire l'economia del turismo in questo senso. E loro hanno portato questo messaggio, penso che sia arrivato abbastanza in maniera netta e chiara al Presidente della Repubblica. Poi naturalmente sappiamo che gli interventi e le decisioni devono essere prese da un governo e però credo che questa testimonianza, il documentario cercherà di darla, sia importante, perché queste cose diventino di dominio pubblico, mentre oggi sono discorsi che si fanno tra pochi. Il tutto a partire da una scelta, un segno, una presa di posizione contro la mafia e la criminalità organizzata, dato che insomma la partenza è stata proprio una data simbolica, il 1° maggio a Portella della Ginestra, luogo di una strage mafiosa però decisa in alti vertici, e insomma hanno incontrato anche strutture sul territorio poi che lottano quotidianamente contro la mafia. Sì, beh, certo, fare un viaggio attraverso il sud e per riconvertire l'economia nel senso della legalità e nel senso dell'ecologia significa, per forza di cose, fare anche un viaggio contro la mafia. Naturalmente sono due ragazzi che, come dire, sono figli della strage di Capaci, per cui per esempio i due muli, Giovanni e Paolo, sono stati i nomi, appunto, sono in onore di Falcone e Borsellino, proprio perché loro da quel fatto sono stati segnati. E il mulo inoltre era, come dire, non solo è un simbolo operaio, ma è anche l'animale che i contadini e i lavoratori che stavano manifestando nel 1947 a Portella della Ginestra e sono stati vittime della strage di mafia, e non appunto non solo di mafia, con la complicità dello Stato, diciamo, no? Il mulo è stato il primo a essere colpito da un colpo di mortaio, quindi per loro non era solo il fatto che sono strettamente legati alla tradizione contadina e hanno salvato diverse volte dei cavalli e dei muli e a questo si dedicano quotidianamente, ma per loro il viaggio in groppa a un mulo aveva anche questa valenza, questo recuperare la tradizione contadina, ma anche la tradizione di lotta e di lotta per i diritti che questi insomma in qualche modo rappresentano. Mm-hmm. Oh, Christian, ci dai qualche oltre a ricordare chiaramente l'appuntamento di questa sera al centro sociale Ricomincio dal Faro qui a Roma, qualche riferimento online per saperne di più e magari contribuire a questo progetto? Sì, online ci sono tutte le informazioni, foto, c'è il teaser, insomma, che è un piccolo trailer del documentario, così come vorremmo che fosse montato, perché appunto stiamo iniziando a montarlo in questi giorni. Il sito internet dove andare a trovare tutto è produzionidalbasso.com. All'interno di quel sito potete o cercare mettendo nella opzione di ricerca il titolo del progetto che abbiamo scelto essere in direzione ostinata e contraria, o altrimenti cercate il progetto 2284, scusate se vi do questo numero però è indicizzato così. Benissimo. E quindi trovate tutto online, e stasera faremo un aperitivo dove appunto presenteremo il progetto, ma faremo vedere un po' in anteprima alcune immagini, alcune sequenze di quello che abbiamo filmato. Christian, allora ci vediamo stasera, più tardi. A più tardi, allora speriamo anche che ci sia qualche nostro ascoltatore, esatto, e ascoltatrice. Un abbraccio, Christian. Ciao. Grazie Federico, a presto, ciao. Christian Carmosino, coordinatore del progetto Ecomulo, serata di finanziamento questa sera al centro sociale occupato Ricomincio dal Faro qui a Roma. Gaetano Capizzi, direttore della 16ª edizione di Cinema Ambiente a Torino dal 31 maggio.